Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buongiorno, bentrovati da Valentina Furlanetto. Gli esami non finiscono mai e neppure le scadenze fiscali, verrebbe da dire. Incombe infatti la scadenza fiscale di novembre, che in realtà, essendo il 30 novembre una domenica, va versata entro lunedì 1 dicembre. Molti di voi, di noi anche, devono versare la seconda unica rata di acconto sulle imposte sui redditi e i contributi dovuti. Ma è in arrivo anche un provvedimento del governo che, per venire incontro a famiglie e imprese, sta studiando un pacchetto di sgravi fiscali. Si ipotizza una riduzione di 2-3 punti dell'acconto IRE e IRPEF. Di tutto questo parliamo oggi con voi, che potete chiamarci all'800 24 00 24 o mandare un sms al 349 238 6666, e ne parleremo anche con alcuni esperti che tra poco andiamo a presentare. Ma prima, come sempre, diamo uno sguardo a ciò che accade sui mercati europei. Innanzitutto una buona notizia finanziaria, perché il tasso Euribor tre mesi è sceso ai minimi da maggio 2007, esattamente a 4,12%. Una buona notizia quindi per chi ha stipulato un mutuo. Sui mercati europei, dicevamo anche durante il GR, regna la volatilità. Dopo un avvio all'insegna dell'incertezza, gli indici stanno ripiegando, appesantiti in Europa dai bancari, dagli assicurativi, anche dei titoli delle materie prime. In particolare Parigi in questo istante meno 1,37%, Francoforte meno 1%, Londra meno 1,17%, va leggermente meglio Piazza Affari, dove il MIBTEL cede lo 0,66%, meno 0,64% per il MIB 30. A Piazza Affari debole Tenaris, meno 5,46%, sulla scia di ciò che accade in Europa. Male un po' tutte le banche, come era andata anche ieri, anche oggi. Una giornata difficile per il settore. Intesa San Paolo meno 4,63%, UbiBanca meno 3,15%, Unicredito meno 2,92%, Monte dei Paschi meno 2,42%, in attesa dell'intervento dello Stato per combattere la crisi creditizia. Poi invece in controtendenza segnaliamo alcuni titoli, in particolare Mediaset che guadagna il 2,77%, poi Finmeccanica, dopo che gli analisti di UBS hanno confermato la raccomandazione buy, guadagna il 2,28%. Bene anche Telecom questa mattina, più 1,65%. Dopo la rimonta dei giorni scorsi sul mercato è scattato il conto alla rovescia per la presentazione del piano industriale in programma il prossimo 2 dicembre. Per chiudere l'euro a 1,26,28 sul dollaro. Ma torniamo al tema di oggi, che è l'acconto fiscale del 1 di dicembre. Per capire di cosa si tratta, diamo spazio alla scheda che ha preparato la nostra redazione. €80 miliardi di euro per rilanciare l'economia italiana. È un intervento a 360 gradi che dovrebbe comprendere anche un pacchetto fiscale del valore di 4 miliardi. Così, mentre si avvicina la scadenza per il versamento dell'acconto fiscale di fine novembre, che per la precisione quest'anno slitterà al 1 di dicembre, i contribuenti restano in attesa delle decisioni del governo. Tra le misure allo studio c'è infatti la possibilità di una riduzione di 2-3 punti dell'acconto IRPEF ed IRES, che passerebbero rispettivamente dal 99% al 96-97% e dal 100% al 97%. Il beneficio sarebbe comunque solo momentaneo. Si tratterebbe infatti di un semplice rinvio delle imposte che dovrebbero essere versate il prossimo anno. A dover corrispondere l'anticipo fiscale all'erario sono le persone fisiche e società di persone, per le quali l'imposta coincide, salvo casi straordinari, con l'anno solare. Per chi calcola gli acconti su base storica, cioè sulla base dei dati del 2007, l'importo base è quello che, al netto delle detrazioni, crediti e ritenute da conto, è indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente. Tuttavia, è probabile che a causa della crisi economica, quest'anno si faccia ricorso più spesso al metodo previsionale. In base a questo metodo, infatti, il contribuente che prevede di realizzare un reddito inferiore allo scorso anno può effettuare una stima delle imposte dovute per il 2008 e versare un acconto inferiore. Se l'acconto versato risulterà però a consuntivo inferiore a quello effettivamente dovuto, scatterà una sanzione del 30%. Attenzione quindi a fare bene i conti. Questa è la nostra scheda, quindi a conto fiscale bisogna corrispondere l'anticipo fiscale all'erario, però ci sono anche delle novità in arrivo. Per parlarne abbiamo con noi Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. E poi Tino Morina, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Buongiorno a lei. A lei Valentina, ciao Dino, buongiorno a tutti. Allora, chiedo a Tonino Morina di avere un attimo di pazienza perché volevo iniziare la discussione con il collega Dino Pesole, che potrà rimanere con noi solo nella prima parte della trasmissione e che, a differenza di Morina, insomma, che dipanerà un po' le questioni tecniche, Dino, tu ci aiuterai invece nella prima parte della trasmissione a raccontare un po' le novità, in attesa insomma che ci siano queste novità, ma ciò che è trapelato in tema di fisco, no? Abbiamo parlato di questo un pochino all'inizio e poi anche nella nostra scheda. Innanzitutto, il governo ha allo studio questo pacchetto, un taglio di 2-3 punti si dice, vero? Il taglio di 2-3 punti riguarderebbe appunto l'acconto, come abbiamo sentito nella scheda. Bisogna precisare che il decreto del governo varerà mercoledì prossimo. Ieri il presidente Berlusconi ha annunciato infatti che il Consiglio dei Ministri si terrà quindi tra una settimana. Per quel che riguarda la parte fiscale è in via di elaborazione, quindi quello che stiamo dicendo diciamo riguarda semplicemente le anticipazioni di questi giorni. Ovviamente il ministro Tremonti è tornato ieri da Trieste, sta lavorando oggi, domani con i tecnici, quindi gli aspetti diciamo puramente operativi di questa di questo decreto li stanno definendo. Comunque, quello che si sa, si tratterebbe di fare un'operazione che riguarda sostanzialmente 3 punti. Il primo è quello che appena abbiamo sentito, cioè l'operazione di riduzione degli acconti che vanno versati quest'anno il 1 dicembre. Qui bisogna precisare che si tratta di un beneficio momentaneo, poiché l'obiettivo del governo è quello, come dire, di mettere un po' di liquidità nelle tasche degli italiani e mi sembra diciamo un obiettivo doveroso, poiché la crisi sta cominciando a mordere sul serio. Qui si tratta ovviamente di un beneficio momentaneo, perché come abbiamo appena sentito, poi in sede di saldo comunque l'imposta va allineata. L'altro aspetto interessante, anche questo è in via, come dire, di definizione, riguarda un bonus di fine anno che dovrebbe essere corrisposto ai redditi fino a 25-30 mila euro. Anche in questo caso dettagli ancora non ce ne sono, però mi sembra evidente l'intenzione appunto di concentrare gran parte del beneficio sui redditi medio-bassi, che sono quelli che più stanno soffrendo. Il bonus riguarda le famiglie, no? Sostanzialmente riguarda le famiglie. Un'ulteriore precisazione per quanto riguarda la riduzione dell'anticipo. La riduzione dell'anticipo in realtà andrebbe a beneficio in prevalenza delle imprese e dei lavoratori autonomi, poiché come sappiamo per i dipendenti e i pensionati opera la ritenuta alla fonte, quindi su tutti gli stipendi di ogni mese viene operata la ritenuta. Ovviamente anche i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano un'altra attività poi dovrebbero comunque effettuare l'acconto sulla base del reddito presunto nel 2008. Comunque l'idea del governo è quella di beneficiare in questo caso con l'anticipo dell'acconto, con la riduzione dell'acconto, soprattutto le imprese, e anche qui l'intento è abbastanza evidente, cioè quello di favorire da un lato le famiglie, dall'altro le imprese. Si cerca di dare anche, come dicevi tu, un po' di ossigeno ai consumi, però forse dovendo poi, come dicevi, come sottolineavi, versare a giugno invece che il 1 dicembre, il 30 di novembre, insomma, forse le famiglie tenderanno a tenerli in tasca questi soldi. Veramente il problema principale, poiché se noi guardiamo alle ultime 3 riduzioni fiscali importanti che sono state fatte in questo paese, che sono sostanzialmente il cosiddetto primo modulo dell'IRPEF varato dal governo Berlusconi nel 2003, il secondo modulo del 2005 e poi l'ultima riforma, quella del governo Prodi del 2007, e se ci soffermiamo un attimo a vedere anche qual è stato in quello stesso periodo l'andamento dei consumi medi delle famiglie, diciamo che pur in presenza di un intervento fiscale che è stato ben più ponderoso rispetto a quello minimo, necessariamente minimo, che il governo sta ipotizzando in queste ore, l'impatto sui consumi è stato modesto. E questo perché? Perché è evidente che in una fase, diciamo, di crisi in cui l'economia non cresce, le aspettative sono negative, la fiducia delle famiglie, così come quella delle imprese, in una fase recessiva è normale che sia così, sono diciamo rivolte al negativo, è ovvio che una maggiore disponibilità momentanea di denaro difficilmente si traduce in una propensione aritmetica uguale al consumo, piuttosto potrebbe finire in risparmio. Ecco, questa è una scommessa, però ovviamente. Che invece non è lo scopo del governo. Diamo un attimo la voce a Tonino Morina, che non ho avuto ancora il piacere di sentire, per chiarire, visto che non l'abbiamo detto, a chi interessa questa scadenza. Dino ci ha precisato che chi ovviamente ha presentato il 7.30 si trova la trattenuta in busta paga, invece chi è interessato dalla scadenza? Ma di norma sono obbligate tutte le persone fisiche che hanno presentato l'unico 2008 quest'anno, le società di persone, i soggetti assimilati, quindi anche gli studi associati, le società di capitale, gli enti commerciali, gli altri soggetti all'IRES, cioè l'imposta sul reddito della società, che hanno periodo di imposta che coincide con l'anno solare, insomma tutti quelli che di norma hanno presentato l'unico 2008 entro il 30 settembre di quest'anno. Dino Peso, l'obbligo, sì. Scusa che completo, riguarda anche i 730, i modelli 730, chi ha presentato il 730, anche se poi sostanzialmente, come ha ricordato benissimo Dino Pesole, questo pagamento viene fatto poi dai sostituti d'imposta con trattenuta IRPEF in busta paga o dalla pensione, quindi questi sono di norma i soggetti obbligati. Dino Pesole, il provvedimento allo studio del governo riguarda anche l'IVA, è così? C'è un'ipotesi che per la verità non è nuova, perché è già nel programma di governo presentato agli elettori in aprile, e il presidente Berlusconi lo ha anche ricordato nelle scorse settimane. Anche qui però, forse Morino sarà più preciso di me, anche qui però credo che si tratti sostanzialmente di un rinvio, poiché il discorso è quello di diciamo ipotizzare il pagamento per cassa, vale a dire il pagamento dell'IVA che si effettua al momento dell'effettivo versamento e non al momento in cui avviene la transazione. Credo che si possa interpretare come anch'esso come un aiuto momentaneo alle imprese in difficoltà, che possono in qualche modo, come dire, far slittare i versamenti periodici dell'IVA qualche mese dopo. Questo è l'aspetto, diciamo, più rilevante. E poi c'è anche un'ultima cosa che secondo me andrebbe ricordata, anche se non è ancora chiarissimo come il governo intenderà muoversi, e riguarda l'IRAP. Sì, infatti stavo per chiedertelo, perché per le imprese è questo sostanzialmente, no? Sì, perché il fronte. C'è un problema fondamentale di cui nessuno parla, anche perché la cosa è poco nota, ma la Corte Costituzionale da circa 2 anni ha pendente due ricorsi per diciamo incostituzionalità dell'imposta, con riferimento al fatto che l'IRAP, come sappiamo, non è deducibile ai fini delle imposte dirette, IRPEF e IRES. Allora, se per caso la Corte Costituzionale dovesse pronunciarsi a favore della deducibilità, e qui si aprirebbe un problema non da poco per i conti pubblici, non a caso, secondo me molto correttamente la Corte ha sospeso al momento la sentenza in attesa che il governo faccia sapere come intende risolvere il problema. E in questa direzione dovrebbe essere inserito nel decreto un primo passo, non so dire come francamente, perché ancora non è chiaro, in direzione diciamo di una prima parziale deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette. Grazie a Dino Pesole, che è stato con noi in questa prima parte. Attenderemo quindi cosa deciderà di fare il governo mercoledì prossimo. Grazie per essere stato con noi. Veniamo agli ascoltatori che sono in linea. Massimo da Rimini, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Una domanda semplicissima, anche se lievissimamente fuori argomento, riguarda l'IRAP dei cosiddetti minimi. E qualora un piccolo libero professionista già per i redditi del 2007, rientri nel cosiddetto regime dei minimi e anche per il 2008 si preveda di rimanere sotto i 30.000 euro, dovrà versare l'IRAP in sede d'acconto o no? Grazie. Grazie a lei. Tonino Morina. Ma la domanda del nostro ascoltatore sembra fatta apposta, perché in questi giorni i minimi sono stati fatti salvi dall'IRAP e quindi il problema non si pone. Oltretutto la Cassazione addirittura ha salvato Fiorello dall'IRAP, Fiorello il noto showman, perché praticamente il professionista singolo che non ha un'autonoma organizzazione praticamente è escluso da questo tributo, quindi non solo i minimi ma anche persone che guadagnano tantissimo, a condizione che l'attività da loro esercitata sia tra virgolette indispensabile alla presenza del professionista. E qua mi aggiungo al discorso di Dino Pesole: il legislatore deve intervenire per disciplinare questo discorso dell'IRAP, altrimenti potrebbe finire come l'ILOR tanti anni fa, con una sentenza del 25 marzo 1980 numero 42 che penalizzò chi aveva pagato mentre premiò chi non aveva pagato nulla. Quindi il legislatore dovrebbe essere attento anche a vedere e sistemare l'IRAP dei professionisti. Tonino Morina, chiariamo un paio di cose prima di passare agli altri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024. Abbiamo detto chi deve pagare e a chi interessa questa scadenza, non abbiamo detto chi è esonerato dal pagamento. Naturalmente sono dato chi non ha redditi, quindi non c'è problema per chi è senza redditi. Sono esonerati anche le persone fisiche che hanno applicato il regime forfettino, quello che prevede il pagamento del forfè del 10% su reddito, quelle che hanno iniziato l'attività cioè da 1, 2 o 3 anni, perché per i primi 3 anni possono scegliere il regime forfettino. Quindi l'esonero può essere anche per chi ha iniziato l'attività quest'anno, non aveva redditi da dichiarare nell'anno precedente. Inoltre, per esempio, altri esoneri riguardano gli eredi per i redditi posseduti dal deceduto in caso di successione che si è aperta durante il 2008. Naturalmente è esonerato anche chi, pur avendo dichiarato redditi notevolissimi nell'anno 2007, ritiene nell'anno 2008 di non avere redditi da dichiarare o di non avere imposte da pagare. In questo caso può evitare l'acconto, perché si fa, come abbiamo detto più volte, come nella guida del Sole 24 Ore. Peraltro in questi giorni il Sole 24 Ore ha pubblicato un acconti 2008, una guida del Sole 24 Ore di Cerolo e Marchegiani, che spiega, illustra e guida al calcolo degli acconti. Gli esoneri sono tanti e quindi soggettivamente ognuno deve andare a vedere se, facendo il calcolo storico o previsionale, quale conviene dei due. Il mio parere, per esempio, per quanto riguarda i contribuenti che stanno facendo i calcoli, chi può pagare l'acconto di novembre entro il 1° dicembre, è bene che lo faccia, a mio modo di vedere, avendo la possibilità di farlo, senza aspettare riduzione proroga, perché, come ha detto Dino Pesole, si tratta di un anticipo che poi si recupera l'anno prossimo. L'acconto IRPEF, poi tecnicamente, è dovuto se arrigo, spero con questo di dare un'indicazione, arrigo RN30 dell'ultimo modello unico appare un importo pari o superiore a 32 euro, è così? Praticamente l'acconto IRPEF è dovuto perché nel momento in cui supera le 100.000 lire di una volta, che sarebbe sì, 52 euro esattamente. Poi la misura dell'acconto giustamente è disciplinata in 1 o 2 volte, bisogna vedere se l'acconto supera 261 euro si doveva versare in 2 volte, se era inferiore a 261 euro si paga tutto in unica soluzione come acconto entro il 1° dicembre di quest'anno. Questo per le linee generali. Salvo proroghe. Questo per le linee generali, ma giustamente Morina diceva guardate anche sul Sole 24 Ore, avrete indicazioni più precise. Bentornati a Salvadanaio da Valentina Furlanetto. Oggi parliamo di acconto fiscale, perché non manca molto alla scadenza per il versamento dell'acconto fiscale. La data è fine novembre, che però cade di domenica, il 30 novembre, quindi entro il 1° dicembre l'acconto fiscale per l'IRES e l'IRPEF. Di questo stiamo parlando con i nostri ascoltatori all'800240024 oppure via sms potete scriverci al 349 238 6 6666 e conto Nino Morina, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Morina, volevo chiederle, questo acconto, come sentivamo anche nella scheda, c'è chi lo calcola su base storica, ossia sulla base dei dati del 2007, chi su base previsionale. Quest'anno, data la crisi, mi sembra che possa essere probabile che molti, ipotizzando di avere incassato di meno, decidano di fare ricorso a questo metodo previsionale e versino magari meno dell'anno scorso. Bisogna fare attenzione però, no? Si rischia una sanzione. Esattamente, è una cosa che già ha ricordato pure l'amico Dino Pesole: nel momento in cui io faccio il discorso sul previsionale, se per esempio l'anno prima avevo da pagare 10.000 euro, ma quest'anno ritengo di pagare come saldo 5.000 euro, posso calibrare l'acconto su 5.000 euro, fermo restando di considerare giustamente l'acconto fatto a giugno, entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con lo 0,40%, ma a rischio. Nel senso che se l'anno prossimo, anziché il mio debito dovesse essere anziché di 5.000, 10.000, sui 5.000 euro rischio una sanzione del 30% che comunque posso sistemare con il cosiddetto ravvedimento operoso, pagando poi in sede di dichiarazione dei redditi una sanzione ridotta al 6% più gli interessi ragione d'anno dalla data di scadenza del versamento, se resterà primo dicembre o se si dovesse spostare al 15 dicembre si tiene conto della nuova scadenza. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché si tratta di un anticipo, se uno può farlo è bene che lo faccia senza complicarsi troppo la vita o senza aspettare questo spostamento, questa proroga o questa riduzione di 2-3 punti percentuali, perché comunque già dal 1 gennaio 2009 se io ho pagato 10.000 euro in più per esempio li potrò compensare dal 1 gennaio 2009 con i versamenti da fare come credito dell'anno 2008, quindi in un mese, fra un mese si potranno compensare a partire dal 1 gennaio 2009. Diamo voce anche agli ascoltatori. Antonella da Bologna, buongiorno, grazie per aver atteso. Grazie, dica. Buongiorno. Senta, volevo fare questa domanda. Dunque, se un lavoratore autonomo, ad esempio, o una società che è in regola con la presentazione della dichiarazione dei redditi e con tutti i pagamenti rateizzati precedenti, non è in grado di pagare l'acconto di fine novembre, è possibile, si può pagare più avanti, ad esempio entro maggio, entro giugno? A cosa si va incontro come sanzioni, eventuali interessi? E se a quel punto, pagando ad esempio a maggio, avendo già definito la chiusura 2008, uno può pagare quell'acconto in base all'effettiva chiusura del 2008? Grazie, la ringrazio. Tonino Morina. Ma la nostra ascoltatrice si è collegata in un certo senso al punto giusto, perché già l'avevamo anticipato, e allora è corretto quello che vuole fare la nostra ascoltatrice: non avendo soldi non paga perché non ha la possibilità di farlo e quindi si sposta in avanti il versamento. Naturalmente nel momento in cui si sposta in avanti il versamento a maggio, come ha detto la nostra ascoltatrice, e ha già la dichiarazione dei redditi pronta, sa qual è il suo debito effettivo, lei può pagare l'acconto sul suo debito effettivo. Poniamo che il suo debito effettivo sia di 10.000 euro, per dire, lei non ha pagato nulla, sui 10.000 euro pagherà gli interessi ragione d'anno del 3% dal giorno in cui successivo alla scadenza, abbiamo detto per ora primo dicembre, quindi a partire dal 2 dicembre, ma se il governo dovesse decidere di spostare il versamento al 15 dicembre pagherà gli interessi del 3% e ragione d'anno dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, più una piccola sanzione del 6% su 10.000 euro, cioè 600 euro. Quindi facendo in questo modo la nostra ascoltatrice può stare tranquilla, non ci sono grosse preoccupazioni, perché per fortuna con la riforma delle sanzioni dal 1998 rinviare un versamento non è così oneroso come una volta. Antonella ci scrive al 349-238-6666. Chi fa la dichiarazione per la prima volta nel 2009 deve pagare l'acconto? Nel momento Quindi in probabilmente cui inizia un'attività. certamente, se inizia l'attività per la prima volta e nell'anno precedente non aveva redditi, perché attenzione, ci possono essere contribuenti che non hanno fatto la dichiarazione lo scorso anno ma erano obbligati a farlo, in un certo senso si sono dimenticati di presentare la dichiarazione. Ecco, questi contribuenti, anche se si sono dimenticati di fare la dichiarazione perché obbligati, sono obbligati a fare l'acconto. Se invece la nostra scrittrice, quella che ci scrive queste Antonella, cose, sì, e non ha fatto nulla, non aveva redditi nell'anno 2007, quindi il primo anno di dichiarazione dei redditi è il 2008 e farà l'unico nel 2009, non deve fare alcun acconto, perché per gli inizi attività, sempre che non hanno redditi di anni precedenti, non c'è obbligo di pagare acconti. Quindi non c'è anticipo. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Niente, il mio quesito era relativo alla mia posizione col Sistema Sanitario Nazionale. Io sono un pediatra di libera scelta convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. C'è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione che ritiene illegittimo, adesso non so se uso la terminologia corretta, il pagamento dell'IRAP per quanto riguarda i medici convenzionati col Sistema Sanitario. E allora il mio quesito era: pagare, chiedere rimborso o non pagare, cioè nel momento in cui c'è l'acconto che prevede il pagamento dell'IRAP? Quindi c'è questa sentenza della Corte di Cassazione che ritiene illegittimo il pagamento. Tonino Morina, deve pagare questo volta, medico? Una volta Valentina si diceva: per pagare, per morire c'è sempre tempo. Quindi se vuole ascoltare un proverbio che viene dalla saggezza così dei vecchi, dell'esperienza, forse aspetterei un attimo, però naturalmente è un discorso soggettivo che deve andare a vedere col suo commercialista. Domenica il Sole 24 Ore ha pubblicato sul Sole 24 Ore di domenica 9 novembre la sentenza della Cassazione, che non solo salva tra virgolette i medici che sono in un certo senso i primi ad essere esonerati perché hanno un'attività quasi di parasubordinato, quindi non solo di lavoro professionale ma un po' meno del lavoro professionale perché sono convenzionati, ma salva addirittura dall'IRAP anche Fiorello, lo showman, che secondo la Cassazione è un'attività svolta esclusivamente da Fiorello e quindi escluso dall'IRAP, dal pagamento dell'IRAP. Però attenzione, è un discorso da fare col commercialista. L'augurio che abbiamo fatto in apertura di trasmissione è che il legislatore intervenga a definire quando il singolo professionista che non si avvale di svariati collaboratori o di dipendenti è escluso dal tributo regionale, perché altrimenti c'è quel rischio che ho accennato in apertura di trasmissione. Un ascoltatore scrive via SMS, non si firma, non sappiamo il nome, ma mi sembra calzante nel discorso che stiamo facendo: un agente di commercio deve pagare l'IRAP, non ho struttura, sono solo io. È un po' questo il tema, no? Esatto, questo è un tema molto battuto in questo periodo. D'altra parte, anni fa qualcuno disse che l'IRAP era l'imposta rapina e quindi si sperava e si pensava che venisse subito soppressa, sostituita, abolita, non so che cosa si volesse fare. Però per professionisti, per agenti di commercio è un discorso da andare a vedere caso per caso con il proprio commercialista, ma anche l'agente di commercio, come osservi tu Valentina, è un po' lo stesso discorso del singolo professionista, non avendo struttura, una autonoma organizzazione che vada avanti senza l'intervento dell'agente o del professionista, si dovrebbe restare esclusi dall'IRAP. Quando la prevalenza dell'agente rappresentante o del professionista è fondamentale per l'attività professionale o di agente, a mio parere la Cassazione sta dando sentenze, sta dando diverse sentenze a favore dei contribuenti. Litigare non conviene a nessuno, nemmeno agli uffici fiscali, perché si creano contenzioso magari senza pensare alla vera evasione. Marina da Bergamo. Buongiorno, comunque complimenti per la vostra radio. Grazie, anche lei è un medico? Sì, io sono un medico di famiglia, penso che la risposta mi sia stata già data, perché ho sentito che insomma devo consultarmi col mio commercialista a proposito del pagamento dell'IRAP. Anche lei aveva il dubbio in base a questa sentenza della Cassazione? Esattamente, e quindi però il mio commercialista mi dice: bah, vedi tu, a questo punto io non posseggo conoscenze, giusto? Le ha detto vedi tu? Esatto. Ho capito. Ma vedi, tu io un po' alla Ponzio Pilato, io sono del parere che quando si tratta di singoli professionisti come il nostro medico che ci ha fatto già i complimenti, io direi che sarebbe opportuno non pagare ed eventualmente vedere, perché come ho detto poco fa, per pagare per morire c'è sempre tempo, soprattutto laddove nel caso del singolo professionista vedrà nei prossimi giorni la nostra ascoltatrice la sentenza della Cassazione, che probabilmente sarà pubblicata, quella che riguarda Fiorello, e quindi avrà un po' un'idea più chiara di quello che deve fare, perché se la Cassazione dice che Fiorello, pur guadagnando qualcosina di più del nostro medico che ci ascolta, è escluso dall'IRAP, a maggior ragione ritengo che sia escluso il nostro medico che ci ascolta. Bentornati a Salva Danaio, in diretta con voi per parlare di fisco, per parlare del versamento dell'acconto fiscale entro il primo di dicembre. Lo ricordiamo, ne stiamo parlando con voi ascoltatori che ci chiamate all'800240024 con Tonino Morina, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, che ci sta aiutando a dipanare i dubbi degli ascoltatori. A questo proposito, ci sono, Morina, delle novità rispetto allo scorso anno, al di fuori delle novità che si attendono forse dal governo? Ma novità ce ne sono tantissime, dobbiamo considerare la manovra d'estate, ma queste novità impattano soprattutto nel momento in cui uno vuole rideterminare, di calcolare l'acconto, perché diversamente se uno va sullo storico, nel senso che paga l'acconto sulla base del debito dell'anno precedente, delle novità della manovra estiva diciamo se ne può anche fregare, voglio dire, per cui novità sui ricalcoli e quant'altro ce ne sono, e sono intervenuti in base alla manovra d'estate il 112-78, un decreto legge che praticamente ha modificato diverse situazioni in termini di deducibilità d'imposta, in termini per esempio il discorso delle auto, altri discorsi che hanno riguardato le spese di vitto, viaggio. Insomma, ci sono tante di quelle novità che staremmo qui a parlare tutta la giornata. E bisogna ovviamente rivolgersi al proprio commercialista. Speriamo non risponda. Veda lei come ha risposto il professionista, la signora di prima. Giuseppe da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda che non so se in parte probabilmente già è stata data una risposta. Io sono un agente di attività finanziaria, sono un libero professionista con partita IVA. E lavoro per conto di una società, ho un mandato per conto di una società, usufruisco di un ufficio sempre pagato dalla società e volevo sentire appunto se sono tenuto a pagamento dell'IRAP oppure no, alla luce di quello che state discutendo. Sì, Giuseppe, l'abbiamo sentita per un attimo male, speriamo di aver capito bene, comunque vuole capire se deve pagare l'IRAP come libero professionista. Morina? A me sembra che il leitmotiv di oggi è l'IRAP, sì. Tutti quanti vogliono sapere notizie sull'IRAP. Dobbiamo ribadire che per quanto riguarda il singolo professionista, il singolo rappresentante, la persona che non ha una struttura autonoma organizzata, la Cassazione si sta orientando più volte per l'esonero e l'esclusione dal pagamento del tributo regionale. Naturalmente se l'autonoma organizzazione significa che l'impresa o l'attività professionale possa andare avanti da sola senza la presenza dell'agente, del rappresentante, dell'esperto finanziario o del professionista. Se ciò non è, nel senso che è importante la presenza del singolo professionista e quindi non c'è una autonoma organizzazione, la Cassazione più volte si sta pronunciando per l'esclusione dall'IRAP. Abbiamo già detto anche in apertura di trasmissione che la Cassazione da recente, in questi giorni, ha salvato anche Fiorello dall'IRAP, nel senso che lo ritiene escluso dall'IRAP, ma è importante, a mio modo di vedere, se il governo mette mano, come ha detto anche Dino Pesole, sui problemi IRAP che sono da sistemare per dare una legittimità, una correttezza di comportamento a tutti i contribuenti italiani, singoli professionisti, singoli imprenditori e quanti altri. Fiorello, la sentenza Fiorello fa legislatura, insomma. Pietro d'Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di tutto, innanzitutto. Volevo dire apposta, io ho fatto compravendita di una casa e ho l'IVA, mi hanno messo mente, l'IVA di quella casa che ho venduto, la prima casa, l'hanno messa in acconto, cioè, no, me l'hanno scritta sul rocito. Ora, questa IVA la posso portare in detrazione a fine mese, scalare sulla dichiarazione? Quindi ha venduto una casa e... Ho venduto una casa e ne ho ricomprato un'altra, però sì. Avendo comprato quest'altra da una società, non ho potuto scalare l'IVA immediatamente. Quindi l'hanno messa nell'acconto. Esatto, no, me l'ha messa nel contratto l'IVA il notaio. Non so se mi sono spiegato. La sua domanda è? La domanda è, ecco, posso questa IVA portarla in scalarla sull'acconto che devo pagare ora? Ho capito, Pietro. A fine mese? Tonino Morina. No, non lo può fare. La risposta purtroppo è negativa in questo caso. Casomai in sede di dichiarazione del reddito l'anno prossimo compilerà il quadro CR del modello unico e potrà andare a vedere se va a credito o meno. Come acconto non lo può fare. Fabio da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Io in merito alle sanzioni vorrei chiedere al dottore, ove da accesso della polizia tributaria, ovvero da accertamento, si rilevasse il mancato versamento, per esempio a conti 2007, la sanzione sarebbe automaticamente il 30%, oppure potrebbe di più, avere, come dire, la chance della riduzione a un sesto? Ah, ecco. Tonino Morina. Qualsiasi intervento dell'amministrazione finanziaria preclude il ravvedimento, perché il ravvedimento è considerato tale se è spontaneo. Se invece il ravvedimento è fatto, che non può essere fatto, dopo l'intervento dell'amministrazione finanziaria, uffici delle entrate o guardie di finanza, non è più possibile avvalersi del ravvedimento. Quindi in questo caso l'intervento dell'amministrazione pubblica, guardia di finanza, ufficio delle entrate, stoppa la possibilità di fare il ravvedimento. Certo, il ravvedimento, come precisava, è spontaneo, insomma, deve essere il versamento spontaneo. Esattamente. Enrico da Savona. Sì, buongiorno. Anche lei vuol parlare di IRAP? Sì, visto che stavate parlando di questo, sì, mi ha incuriosito. Io sono un agente di commercio, anche io. Io ho una struttura, nel senso che ho un ufficio e una segretaria. Però a questo punto la mia struttura non è autonoma, perché se io non vado a lavorare, la mia segretaria non va in giro a lavorare per conto mio. Qui ho la struttura, ma non è, diciamo, indipendente la struttura senza di me. A questo punto cosa succede? Deve pagare o meno l'IRAP? Esatto. Tonino Morina. Tanto Valentina che oggi abbiamo parlato più di IRAP che di altro. Sì. E meno male che uno diceva una volta che era imposta rapina. Però lasciando perdere il discorso di quello che si diceva, nel caso del nostro così agente che ha anche una dipendente... Ha una segretaria, sì. Una segretaria. Naturalmente... La Cassazione ancora non si è spinta in presenza di dipendenti. Suggerimento che abbiamo dato dal Sole 24 Ore, che è volta al legislatore di intervenire per spiegare, per illustrare, per dettare una norma ben specifica. Nel caso del nostro ascoltatore, che è anche una dipendente, fino ad oggi le sentenze di Cassazione sono un po' più ballerine. Mentre sono favorevole al contribuente senza dipendenti, in presenza di qualche dipendente, anche se ha ragione il nostro ascoltatore che non esiste l'autonoma organizzazione, per la ragione che non essendo lui presente l'impresa non va avanti, e allora in questo caso, ripeto, un po' più a rischio di contenzioso con l'amministrazione finanziaria, che speriamo, veramente auguriamo e invitiamo il legislatore tributario, il ministro Tremonti o chi per lui, a disciplinare questa materia per evitare che, come abbiamo già detto, che si ripeta quel discorso dell'ILOR del 1980, chi ha avuto avuto, chi ha dato, scordiamoci passato. Non è giusto, non è corretto per chi fa il proprio dovere e ha paura, diciamo, di sanzioni o preoccupazioni. Tonino Morina, veramente un flash per rispondere a Stefano che ci ha scritto via SMS. Dipendente fino al 2008, libero professionista dal 2009, quale acconto pagare nel 2009? Ma se non ha lui, diciamo, debiti come dipendente, non ha nulla da pagare, perché l'attività professionale l'ha iniziata nel 2008, e quindi poi si vedrà l'anno prossimo quali saranno i suoi obblighi. Grazie a Tonino Morina, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, che è stato con noi, e anche al collega del Sole 24 Ore Dino Pesole, che è stato con noi nella prima parte di Salva Danaio, in redazione Gaia Romani e Valeria Coffaro, in regia Fabio Cantadori. Da Valentina Furlanetto è tutto. Salva Danaio torna domani, linea al GR.